Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro sguardo al di fuori dei confini italiani. Lo sguardo mio si allunga con quello di Eleonora Aragona, Silvia Mannati, Antonio Talia, che sono in redazione con me, già Marco Ferronato, anche quest'oggi a sottolineare con le musiche i temi che tratteremo appunto quest'oggi. Commenti e domande al 349-238-6666, il numero, ve lo ricordo, vale sia per i WhatsApp che per gli SMS. Twitter, Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. La pagina Facebook, cercateci, Nessun Luogo Lontano, trattino, Radio 24. Se ci avete ascoltato all'anticipazione delle 13, avete capito dove vi porto. Vi porto in Kashmir. E accendiamo i riflettori su una rinnovata crisi, in realtà non si è mai sopita. Le cronache indiane ci restituiscono da ormai quasi 50 giorni scuole e università chiuse, luoghi di ritrovo sprangati, negozi aperti solo in orari consentiti dai militari, violenza e repressione sulle strade. È questo appunto il ritratto, la fotografia drammatica che emerge da questa regione contesa da Pakistan, India, ma anche dalla Cina. Le violenze in questa zona dell'India sono storia antica, riesplodono periodicamente, ma l'ultimo episodio che la fate nuovamente detonare risale all'8 luglio scorso, quando le forze di sicurezza indiane hanno ucciso il giovane militante Burhan Wani, indipendentista, era a capo di Hizbul al-Mujahideen. I social hanno immediatamente condiviso quello che era accaduto e tutto ciò ha condotto in piazza migliaia e migliaia di persone, e la risposta dell'India, come spesso accade, è stato un pugno di ferro. Si calcola che dall'8 luglio scorso per le strade di Srinagar, capitale del Kashmir, siano stati sparati 1,5 milioni di proiettili di gomma, oltre 4.000 i feriti, molte le lesioni permanenti, i morti 67, inclusi due poliziotti. La questione del Kashmir, risale alla fine degli anni 40 con la formazione dei due stati, India e Pakistan, ma poi apriremo una ampia parentesi storica. Ma fatemi andare subito in diretta a Nuova Delhi, dove c'è Daniele Pagani. Daniele Pagani, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, giornalista di WeOn, conosce molto bene la zona. Daniele, le ultimissime, che bilanci ci consegnano e che cosa riesci a capire? Perché ricordiamo che in questo momento è anche molto molto difficile comunicare con i colleghi che sono in Kashmir, è vero Daniele? È verissimo. Allora, abbiamo notizie di rinnovati scontri oggi nel primo pomeriggio. Sembra che ci siano 17 feriti, di cui alcuni abbastanza gravi, almeno due. E giustamente, come dicevi, è molto difficile ricevere informazioni. Noi abbiamo un reporter Kashmiro, cioè del posto, che lavora per noi, ed è attualmente impossibile comunicare con lui via telefono, e l'unica cosa che possiamo utilizzare sono le mail. Quindi anche noi abbiamo, diciamo, notizie a singhiozzo. Sembra però che i disordini siano ricominciati e staremo a vedere il venerdì, perché come sempre dopo la preghiera della sera è il momento in cui gli scontri culminano. Certo, in parte immagino tu mi abbia già risposto, perché se è vero che le comunicazioni col Kashmir sono difficili, immagino anche che la copertura che i media indiani fanno non sia esattamente né facile né, forse in alcuni casi per i media più allineati, più filogovernativi, nemmeno troppo trasparente. Guarda, è assolutamente vero, e puoi non essere cauto quando ne parli. Purtroppo i media indiani sono sorprendentemente e ciecamente nazionalisti per quanto riguarda il Kashmir, e quindi non è facile neanche per quando si lavora per un media indiano essere rispettati e presi sul serio dalla popolazione locale. Quando si va, si rischia anche di essere attaccati, come è successo al nostro reporter indiano che 3 settimane fa è andato in Kashmir e ha avuto molta fatica, veniva minacciato. Perché purtroppo c'è una copertura molto filogovernativa che mette in luce solo le violenze da parte della popolazione e mai le violenze da parte della polizia. E aggiungere questo alla difficoltà di raggiungere la zona ovviamente è un problema nel raccontare ciò che succede davvero. Certo. Daniele Pagani, dicevo, apriamo una piccola parentesi storica, stai con noi, sono temi che conosci, ma poi su quelli ti solletico per quello che può essere la stretta attualità e anche il futuro. Abbiamo raggiunto la professoressa Elisa Giunchi, che insegna all'Università Statale di Milano storia e istituzioni dei paesi islamici. Sentite come apre uno squarcio storico su questa storica, appunto, contesa tra India e Pakistan. Il Kashmir era uno degli stati principeschi che aveva uno status autonomo particolare sotto il Raj britannico. Con la partition, cioè con la spartizione del subcontinente indiano nel 1947, una delle dispute che saranno ereditate dai due nuovi stati dell'India e del Pakistan saranno, oltre a quella sulla Durand Line e altre dispute territoriali minori, quella proprio relativa al Kashmir. Sul Kashmir i due paesi entrano in guerra già nel 1947-48, poi ci sarà una seconda guerra nel 65, una piccola guerra nel 1999 e un continuo stato di tensione e di complicazioni ulteriori che si verificheranno nei decenni successivi. È vero che la recente cronaca ci consegna scontri per più di 50 giorni con decine di morti e centinaia di feriti, è vero che questa contesa, questa regione, il Kashmir, tra India, Pakistan e Cina, ha radici molto molto antiche. La professoressa Elisa Giunchi, che insegna storia e istituzioni dei paesi islamici alla Statale di Milano, ci sta aiutando a comprendere meglio la storia di questa contesa. Sentite cosa dice alla domanda perché è così importante la questione del Kashmir, perché ve lo stiamo raccontando quest'oggi, sentite. In realtà Hari Singh, che avrebbe voluto, il Maharaja del Kashmir, avrebbe voluto nel 1947 mantenere l'area indipendente, o perlomeno tentennava nella decisione se far parte dell'India o del Pakistan, fu poi sentì in un certo senso obbligato a chiedere l'aiuto indiano quando nell'autunno del 1947 vi fu una rivolta locale nel nord del Kashmir, probabilmente questa è la posizione indiana, perlomeno aiutata non ufficialmente dal Pakistan. E quindi in seguito avvenne l'annessione da parte indiana di parte del Kashmir, l'entrata in guerra del Pakistan e la divisione nel 48-49 del Kashmir in due aree, due aree divise dalla linea del cessate il fuoco, poi sarà chiamata line of control, che diverrà due aree sottoposte a un regime giuridico particolare. Ecco, poi la situazione si è estremamente complicata, perché da una parte l'area non è contesa solo da India e Pakistan, ma in parte anche dalla Cina, che rivendica un'area a nord-est, l'area del Aksai Chin, che è quasi disabitata, e che proprio su questo confine è entrata in guerra con l'India nel 1962. Una guerra molto breve, che sarebbe magari poco importante se non fosse che ha avuto poi delle conseguenze sul piano regionale e internazionale grandissime, cioè l'avvicinamento degli Stati Uniti inizialmente solo sul piano militare all'India, che scontentò il Pakistan, spinse il Pakistan a avvicinarsi maggiormente alla Cina, e altre conseguenze a livello regionale. E come sentite, il Kashmir è stata negli anni passati quasi una chiave di violino, perché ha ridisegnato anche gli equilibri strategici e geopolitici. Quello che è certo è che c'è una popolazione civile che soffre di una situazione di estrema tensione che gli ultimi giorni di cronaca ci hanno riconsegnato. Fatemi tornare a Nuova Delhi con Daniele Pagani, giornalista di WeOn. Daniele, la vita quotidiana degli abitanti del Kashmir quanto viene colpita, quanto viene impattata da una situazione ormai di tensione perenne? Beh, moltissimo. Allora, ci tengo a precisare, io ovviamente sono stato in Kashmir, vorrei anche precisare che il Kashmir, oltre a tutto questo, è una regione meravigliosa, con una popolazione meravigliosa. Comunque, la vita quotidiana delle persone è impattata, i militari sono presenti ovunque, a ogni angolo delle strade, la presenza militare indiana è percettibile. E il coprifuoco è, anche se non legalmente attivo, sempre attivo, perché per esempio, faccio un esempio, se un gruppo di 5, 6, 8 amici cashmiri escono, fanno una passeggiata intorno al lago, scherzano, magari si spintonano, rischiano di essere fermati dai militari che senza nessun tipo di giustificazione li possono portare in caserma, trattenere per tutto il tempo che vogliono senza avvisare le famiglie. E questo succede quotidianamente. Molte volte quando si parla con i giovani, soprattutto uomini cashmiri, raccontano tutti una stessa storia, sì. Cioè che più e più volte nella loro vita sono stati presi a schiaffi o picchiati o prelevati dalle forze di sicurezza indiana senza nessun motivo. E quindi questo ovviamente incrina un già fragilissimo equilibrio che c'è tra la popolazione cashmira e il governo indiano. E certamente dà linfa vitale a quei movimenti indipendentisti e autonomisti come ad esempio Hizbul Mujahideen, scusate, mi si è attorcigliata la lingua, di cui uno dei leader era Burhan Wani, militante che è stato ucciso appunto dalla polizia, e la sua morte è stata una delle cause detonanti dell'ultimo conflitto. Stai con me, Daniele Pagani, perché noi abbiamo chiesto a Sumit Ganguly, che è un professore di scienze politiche all'Indiana University, autore di numerose pubblicazioni, grandissimo esperto, lui è indiano di origine, del conflitto appunto tra India e Pakistan, chi era Burhan Wani, la cui morte ha scatenato le ultime violenze. Burhan Wani era un militante della Valle del Kashmir con una forte presenza sui social media. Era giovane, telegenico, di bella presenza. Era molto popolare tra la gioventù del Kashmir ed è stato recentemente ucciso dalle forze di sicurezza indiane. Era un giovane comandante di Hizbul Mujahideen, l'organizzazione prevalentemente kashmira che tuttavia gode di un forte sostegno da parte del Pakistan. Daniele Pagani, se è vero che i social all'inizio di questa rivolta hanno svolto un ruolo importante, adesso com'è la situazione? Immagino che siano stati tutti oscurati, già che non va nemmeno il telefono, figuriamoci Facebook e Twitter, oppure si riesce in qualche modo a comunicare, almeno sui social? No, non si riesce a comunicare direttamente sui social perché internet è disturbato, quindi c'è una cappa mediatica, internet non funziona, quindi per esempio è impossibile organizzare proteste sui social. Ma non ce n'è bisogno perché, come hai giustamente ricordato più di una volta, il Kashmir non è mai stato in stato di pace, quindi l'organizzazione di proteste sassaiole e rivolte è molto veloce ed automatica, l'ho visto per esperienza diretta, non c'è grande bisogno di comunicazioni sui social e così via. Grazie, grazie mille. Era Daniele Pagani, giornalista di We On, si trova al momento a Nuova Delhi, era stato in Kashmir e ce ne ha restituito un piccolo racconto, un piccolo frammento. Grazie mille Daniele, buona giornata, buon lavoro. Grazie, arrivederci altrettanto. Allora, se è vero che l'ultimo elemento detonante che ha scatenato appunto le rivolte è stata l'uccisione di questo leader di un movimento indipendentista, è anche vero che il vicino Pakistan, come dire, per dirla in termini estremamente prosaici, ha tutto l'interesse a sostenere queste levate di scudi da parte della società Kashmira. Torniamo a Sumit Ganguly, professore di scienze politiche all'Indiana University negli Stati Uniti, autore di svariati libri e saggi sul conflitto, sulle relazioni tra India e Pakistan. A lui abbiamo chiesto: le attuali rivolte sono organizzate dall'estero, dal Pakistan in particolare, o è un movimento prettamente locale? Sentite. It's predominantly a local movement by Pakistan is seeking to exploit the movement. Questo è un movimento prevalentemente locale, anche se il Pakistan sta cercando di usarlo a suo vantaggio, come ha già fatto in passato. Questo stratagemma non è nulla di nuovo. Insomma, il cuore del movimento è senz'altro locale, ma non c'è dubbio che il Pakistan stia tentando di espandere le proteste, istigando i manifestanti che lanciano pietre contro polizia e militari. E allora quale potrebbe essere il sostegno che il Pakistan potrebbe fornire al movimento in questo momento? Sentite ancora Sumit Ganguly. Support in terms of moral support. Prima di tutto un sostegno di tipo morale, ma fornisce anche informazioni alle organizzazioni che movimentano le proteste, magari qualche rifornimento di armi. Soprattutto fornisce nascondigli in territorio pakistano ai militanti. Hizbul Mujahideen e gli altri gruppi per l'indipendenza del Kashmir hanno sempre trovato rifugio in Pakistan quando le forze di sicurezza indiane davano loro la caccia. places where they can hide in Pakistan. E come potete immaginare, una tensione, un conflitto latente di questo tipo certamente ha ripercussioni sul governo dell'India. Quali possono essere gli effetti di queste violenze sul governo del primo ministro Modi? Sentite ancora lo studioso indiano. Yes, to some degree it can be affected. Sì, a un certo livello queste rivolte possono avere un certo impatto sul governo Modi, perché se continuano attireranno inevitabilmente l'attenzione della comunità internazionale. Altrimenti, perché Modi stesso ne avrebbe parlato pubblicamente? Questa situazione potrebbe attirare accuse di violazione dei diritti umani sulle forze di sicurezza indiane dall'estero e in definitiva esercitare pressioni sul governo Modi affinché cambi le politiche adottate nello stato del Kashmir. Dalle informazioni che filtrano dal Kashmir, la situazione sembra appunto sempre perennemente sul punto di esplodere. Come si potrebbero ripercuotere effetti sull'intera regione? Se le violenze nella valle continuano, se non si raffreddano e se il Pakistan continua a sostenere questi movimenti, potremmo persino assistere a qualche forma di conflitto sul confine. Che questo è ovviamente il grande spettro che sia India e Pakistan vogliono tenere lontano, visti i trascorsi di cui vi abbiamo raccontato prima. Poi c'è tutta una parte di letteratura, e chi ci segue a Nessun Luogo Lontano lo sa, perché nelle scorse edizioni del programma ne parlammo parecchie volte. Una delle ragioni della contesa tra India e Pakistan è quella del controllo dell'acqua. Sentite lo studioso indiano che cosa dice in riferimento a questa letteratura. Al momento il problema del controllo delle risorse di acqua non è un elemento in gioco, ma potrebbe diventarlo. Si tratta di una questione che ovviamente riguarda il cambiamento climatico a livello globale. La quantità di acqua che dall'India scorre verso il Pakistan potrebbe diminuire, e per due ragioni. La prima è la diminuzione delle piogge, la seconda è l'aumento della popolazione, che in India sta portando a un aumento del consumo di acqua. Ma la vera minaccia, a mio avviso, rimane il riscaldamento globale. Riscaldamento globale, ma anche l'accesso alle risorse idriche. Spesso sono lenti che ci aiutano a comprendere i conflitti. Pensate alle primavere arabe, pensate al conflitto israelo-palestinese. L'accesso alla risorsa idrica è fondamentale, e in questa particolare regione quantomeno ci fa da background, è un sottotesto che accompagna le tensioni che vi stiamo raccontando quest'oggi. Lo ricordo, 50 giorni, oltre 50 giorni di protesta, 67 morti, centinaia i feriti, un movimento autonomista che è stato decapitato con l'uccisione da parte della polizia indiana del giovane leader di Hizbul Mujahideen. L'ultima domanda per il nostro studioso indiano: quanto è forte il sostegno della popolazione al movimento di protesta? Sentite. Temo che nella valle del Kashmir il sostegno a queste proteste stia crescendo. I giovani si espongono e sono moltissimi. Questo non è un movimento che è stato orchestrato o diretto dai leader tradizionali. Qui abbiamo un'adesione spontanea che rende la situazione molto diversa da precedenti episodi di violenza scoppiati nel Kashmir. E questa era l'analisi di Sumit Ganguly, politologo insieme all'Indiana University negli Stati Uniti e autore di svariati libri. Cercatelo su Google sui rapporti tra India e Pakistan. Adesso però vi devo far fare un salto mortale, anzi salto nel tempo, perché abbiamo sentito anche la professoressa Elisa Giunchi, che insegna storia e istituzioni dei paesi islamici, con la quale è utile tornare indietro nella storia perché si comprendono meglio i rapporti attuali tra i due paesi, dicevo, India e Pakistan. Sentite dalla voce della professoressa Giunchi come la spartizione del Pakistan in due stati poi ebbe un impatto nella contesa anche con l'India. Ascoltiamola. Un altro evento molto importante relativo al Kashmir fu la spartizione del Pakistan nel 1971 in due stati, appunto Pakistan nell'ala occidentale e Bangladesh, che precedentemente era il Pakistan orientale. l'area orientale del paese, e questa spartizione avvenne in larga misura a causa dell'intervento indiano nella guerra civile. E poi nel corso degli anni 70 il Pakistan continuò a accusare l'India di essere dietro la guerra civile in Baluchistan e altri problemi interni al paese. E in questo contesto poi nel 1989 inizia la rivolta Kashmir, che è una rivolta in realtà di militanti per lo più giovani locali che chiedono per lo più l'indipendenza sulla base dell'identità Kashmir. Quell'identità Kashmira che adesso di nuovo è portata avanti da vari movimenti autonomi e indipendentisti, molto lontani, attenzione, come mi scrive un ascoltatore, Enzo, che dice: fatemi capire, siete pro-jihad? No, non c'entra assolutamente niente, è un movimento indipendentista, c'è una maggioranza della popolazione musulmana, ma l'equazione musulmano, islam, terrorista, per favore, lasciamola stare perché è totalmente fuori dalla realtà. Adesso invece si parla di jihad. Cambiamo decisamente argomento e andiamo in Germania. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat hat in Frankfurt der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied des sogenannten Islamischen Staates begonnen. Così Die Welt annunciava l'apertura del processo a Abdelkarim, trentenne, nazionalità tedesca, che era andato a combattere in Siria, era stato poi arrestato in Turchia nel 2015 e adesso si trova davanti ai giudici. Un processo storico, quello che è cominciato ieri a Francoforte, perché sono due i capi di imputazione, questo è molto interessante. Il primo, partecipazione a organizzazione terroristica, e fin qui vorrei dire è abbastanza comprensibile. L'uomo, secondo le testimonianze, fra l'altro anche secondo un video, si sarebbe unito come combattente, guidava un plotone, ai miliziani dello presunto del sedicente Stato Islamico. L'altro capo di imputazione però è crimini di guerra, perché un video, lui è l'autore di quel video, è stato poi diffuso, in un video si ritrae il gruppo dei suoi combattenti che egli guidava smembrare, vituperare un cadavere di un nemico ucciso. Che cosa significa questo processo e se potrebbe costituire un precedente? Questa è la domanda che ci poniamo e la risposta, speriamo, ci aiuterà a darla Antonino Li, professore di diritto internazionale all'Università di Trento. Nino Li, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Ben ritrovato a lei e anche a chi ci ascolta. Allora, professora Li, quali sono gli elementi di novità di questo processo? È vero che ve ne sono stati pochi a carico di foreign fighters, i cosiddetti foreign fighters, quindi combattenti stranieri che vanno appunto in Siria e poi tornano nel paese di origine. Gli elementi di novità di questo processo? La questione che ha appena segnalato è interessante sotto diversi profili e ovviamente è possibile formulare una serie di osservazioni generali, anche se ovviamente si tratta solo di agenzie di stampa. Il cittadino tedesco viene accusato quindi partecipazione a gruppo terrorista internazionale e aver infierito sul cadavere di un nemico. Ora, bisogna ricordare che, per chi non è un tecnico, che si tratta di un conflitto armato, e un conflitto armato non internazionale, cioè un conflitto armato in cui una delle due parti non è un soggetto statuale, e anche in questo genere di conflitti sono presenti delle regole che andrebbero rispettate dalle parti, delle regole in questo caso generalissime rispetto ai conflitti armati invece internazionali. Sì. Nei conflitti armati non internazionali vanno ugualmente rispettati il famoso articolo 3 delle convenzioni di Ginevra, l'articolo comune, nonché tutta una serie di altre regole di natura consuetudinaria. E in questo caso, effettuando una ricerca veloce alla luce di questo caso, è possibile identificare che vi è sicuramente una normativa non indifferente in materia, perché numerosi codici militari, dichiarazioni anche, lo dico molto francamente, della organizzazione della cooperazione islamica, ma anche sì, a soggetti di tipo diverso, sottolineo il fatto che una volta ucciso il nemico non si può infierire ulteriormente sul corpo, perché in qualche maniera questo è un crimine di guerra. Sì. È questo che è interessante, che viene contestato ora al cittadino tedesco. Sì. Ripeto, questa è una questione particolarmente interessante, non vi sono tanti casi e i casi, se si vanno a ricercare all'indietro, sono dei 46, riguardano o giapponesi o tedeschi processati dalle commissioni militari statunitensi. Sì. Antonino Alì, professore associato di diritto internazionale all'Università di Trento, l'impianto giuridico attuale è sufficiente per combattere questo fenomeno? Ma guardi, il diritto internazionale umanitario ormai insomma, è ben consolidato. Insomma, per quanto riguarda il fenomeno dei foreign fighters, ricordiamoci, a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2178 e molto francamente anche a seguito degli attentati terroristici che vi sono stati successivamente, le misure adottate dagli stati sono numerose, sì. Ma io punterei l'attenzione più sul profilo relativo alla normativa, al fatto all'applicazione concreta delle regole, che è un punto su cui anche gli organismi delle Nazioni Unite puntano molto. Cioè non è semplicemente importante avere una attuazione formale di queste regole, ma concretamente poi applicarle. Sì. Professore Alì, stia con noi, c'è l'informazione finanziaria, poi un'ultima domanda per lei. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, seconda pagina, tutta dedicata ai foreign fighters, a come il diritto internazionale disciplina questa fattispecie e a come, ne parleremo più avanti, come vengono recuperati, cioè come si cerca di porre rimedio a questa piaga. Il là ce l'ha dato la cronaca, che ci racconta che ieri a Francoforte è cominciato un processo che si annuncia storico. Abdel Karim, 30 anni, cittadino tedesco, è andato in Siria, ha combattuto, poi è stato arrestato in Turchia e adesso di fronte alla giustizia tedesca deve rispondere di associazione terroristica ma anche di crimini di guerra. Ad oggi si stima che siano quasi 30.000 i foreign fighters giunti in Siria e in Iraq da oltre 100 paesi. Questi sono i numeri forniti dalla Commissione sul terrorismo delle Nazioni Unite. Il numero di combattenti è duplicato nel 2015 rispetto al 2014. Un rapporto del centro di ricerca Sufan Group ha stimato che la maggior parte dei combattenti proviene da Tunisia, Arabia Saudita e Russia. Sono poi circa 5.000 combattenti giunti dall'Europa e altri 4.700 arrivati dal blocco delle ex repubbliche sovietiche. Tra i paesi europei, la Francia è quello con il maggior numero di combattenti in Siria e in Iraq, 1.800, Regno Unito, Germania, 760, Belgio, 470. Questi i numeri di un fenomeno che ovviamente preoccupa non soltanto i governi, ma anche i cittadini e... di fronte a questo fenomeno c'è una giustizia, quella tedesca in particolare, che si sta muovendo. Però, grazie al professor Antonino Alì dell'Università di Trento, stiamo comprendendo come esista un impianto giuridico internazionale che fa riferimento anche a quella risoluzione ONU 2178 del 2014. Ma poi ciascuno Stato in realtà può prendere dei provvedimenti. Antonino Alì, ad esempio l'Italia. È vero che noi possiamo bloccare una persona in partenza per la Siria, per quel luogo lì, e se lo facciamo in base a quale ordine, quasi a quale legge, a quale provvedimento possiamo farlo? Allora, guardi, la situazione ovviamente è abbastanza complessa, nel senso che dipende se si tratta di cittadini o di residenti di lungo periodo, quindi di stranieri. Consideri che molto spesso la reazione del nostro Stato è quella di espellere determinati soggetti che sono vicini a quegli ambienti. Per quanto riguarda i cittadini, deve considerare, a seguito della legge 43 del 2015 dell'anno scorso, che ha inteso anche attuare una parte degli obblighi della risoluzione del Consiglio di sicurezza che lei ha citato, abbiamo una serie di regole che consentono di intervenire a più livelli, ad esempio con il ritiro del passaporto o altri strumenti che in verità venivano utilizzati in passato prevalentemente per le associazioni di delinquere di stampo mafioso, sì. E qui vengono utilizzati per colpire un altro tipo di fenomeno. Sono misure preventive per bloccare, per impedire, e inoltre altre regole che sono volte a incidere in particolare sull'associazione con finalità di terrorismo, sì, e il fenomeno dell'autoaddestramento. Sì. Su quello adesso iniziamo a puntare il dito, perché quello è molto interessante. Ringrazio intanto Antonino Ali, Università di Trento, professore associato di diritto internazionale, ci ha reso un po' più chiare le cose. Grazie mille Ali, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Allora, premesso che anche la scelta lessicale diventa molto, molto difficile, perché molto spesso sono termini estremamente tecnici quelli che dovremmo usare, però cerchiamo di rendere chiara la cosa senza banalizzarla. Decidere di partire per la Siria, diventare un combattente, un foreign fighter, come si dice, citando quella risoluzione ONU, presuppone un processo precedente, che è quello di cosiddetta radicalizzazione. Come avviene quel processo? Con quali armi? Sappiamo che il web, per esempio, svolge un ruolo molto importante. Su internet vi sono vari siti, vi sono vari, quasi dei tutorial si possono trovare anche per l'addestramento. Un aspetto però molto utile da indagare è quello musicale, e ci soccorre in questa analisi, Guido Travaini, docente al Master di Criminologia Clinica presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Il rap, la musica, è stato un terreno fertile in alcuni ambienti per il reclutamento. Ricorderete la figura di Jia Dijon, che era un ex rapper, ma poi si scopre anche essere una formidabile arma di contropropaganda. Sentite su cosa sta lavorando Guido Travaini e il suo team. Allora, prima di tutto, il rap è un mondo musicale di grande interesse perché è estremamente reattivo. Rispetto a un evento, poi immediatamente i rapper scrivono canzoni, le pubblicano soprattutto online, e questo rende il rap di estremo interesse per chi, come noi, si occupa di criminologia, quindi di osservazione di fenomeni. Partendo in maniera così dalla curiosità, che è il motore della criminologia, ci siamo posti il problema di come potesse reagire il mondo rap rispetto a un cambiamento anche degli attacchi di tipo terroristico. Pensiamo alla Francia, dove c'è stato un attacco durissimo a un concerto, e poi l'ultimo evento di Nizza, cioè quindi grande evento popolare e quindi attacco al popolo e con tutto il dramma che ne è conseguito. Allora, insieme a dei collaboratori abbiamo incominciato a ripercorrere quello che in realtà era già stato fatto dagli americani, perché ci sono dei lavori molto di interesse che sono stati fatti in America relativamente alla capacità di radicalizzazione e l'utilizzo del rap come meccanismo di radicalizzazione. Noi, partendo da questo assunto, quindi da quella metodologia, ci siamo chiesti e ci stiamo chiedendo, perché è una ricerca in corso, se c'è stato questo cambiamento in positivo. I primi segnali sono segnali, quindi bisogna leggerli con prudenza, ci dicono che qualcosa sta accadendo. La nostra ricerca riguarda l'Italia e la Francia, perché poi il mondo anglosassone è ancora più vasto da valutare, e i primi segnali, come dicevo, sono che alcuni cantanti, alcuni esponenti del mondo rap stanno prendendo una posizione, ed è una posizione quantomeno di dubbio e in alcuni casi anche di condanna rispetto a questi eventi. Mi sembra interessante ricordarne due. Uno è francese, che ha fatto, ed è stata pubblicata la notizia da Nice Matin, ha fatto questo lavoro riguardo a un rap che in Francia è abbastanza famoso, riguardo alle vittime della Promenade, ed è un rap che in questo momento è molto visualizzato. In Italia ci sono alcuni casi che vanno da un esempio di un cantante che ha fatto un rap che ha tantissime visualizzazioni, che si intitola proprio "Ho paura dell'ISIS", quindi un messaggio molto molto chiaro. Io non voglio morire, non voglio morire, riro. Se ci attaccano, cano, ho paura dell'ISIS. Allora, lui si chiama Bello Figo, è molto giovane e ha un grossissimo seguito su YouTube. Se guardate, le visualizzazioni sono impressionanti, e fa parte di questa di questa corrente di giovani rapper che utilizzano il web, utilizzano internet per affermarsi e per affermare le idee. È molto interessante quando un giovane, che potrebbe essere target di una certa propaganda, beh, utilizza proprio la rete invece per esprimere una posizione di ferma condanna. Sentite ancora Guido Travaini, docente al Master di Criminologia Clinica, Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Affrontiamo con lui l'aspetto semantico. Vi sono termini ricorrenti nei rapper, pro o contro, per ridurla in termini appunto da internauti. Ci sono degli hashtag ricorrenti nel reclutamento e nell'antipropaganda. Sentite. Sicuramente il linguaggio che viene utilizzato è un linguaggio dove il tema centrale è spesso l'uso della violenza. Quindi direi che è importante il meccanismo di giustificazione della violenza, che è la cosa più importante, perché in tutti i meccanismi di radicalizzazione occorre far passare che l'utilizzo della violenza sia qualcosa di giusto e di impossibile da evitare. Quindi in alcuni testi questo concetto veniva enfatizzato. Ad oggi, nei casi che stiamo analizzando, una cosa che io trovo di estremo interesse, emerge il tema del dolore, dell'essere spettatore di qualcosa di così violento. C'è questo caso di questo rapper italiano che racconta la sua tristezza nel vedere Aleppo che muore. Ecco, io credo che lavorare su concetti, uno è quello della violenza come necessaria, e un altro invece la presa di coscienza che la violenza possa creare e crea del dolore, questo sia un passaggio molto importante per i meccanismi che operano nella fase di radicalizzazione delle persone, riconoscere che quel tipo di violenza crea del dolore. Io penso che questi due aspetti siano quelli che di maggiore interesse. Seguiteci, gentili ascoltatori. Siamo partiti dal processo che è iniziato ieri a Francoforte a carico di Abdelkarim, trentenne, cittadino tedesco. Era andato a combattere in Siria, adesso si trova di fronte alla sbarra. Deve rispondere di fronte alle autorità tedesche. I capi di imputazione, associazione terroristica, ma anche crimini di guerra. Ovviamente il processo è stato lento, quello che viene definito radicalizzazione, reclutamento, poi la partenza per la prima linea, per la Siria e per l'Iraq. Ma c'è anche tutto un fenomeno che riguarda combattenti che poi rimangono in Europa, se volete può essere definita la fase B del reclutamento del sedicente Stato Islamico. Però una parte fondamentale è dopo il processo. Cosa succederà a quel Abdelkarim? Come verrà recuperato? Tra le persone, i professionisti che lavorano in questo campo, Lisbeth van der Heide. È una ricercatrice all'ICCT, è il centro che coordina le attività sulla riabilitazione e il reintegro degli estremisti più violenti. Sentite come è iniziata la sua storia professionale. Lavoro in Olanda per il centro di riabilitazione per terroristi da 5 anni. Quando ho iniziato stavamo già facendo ricerca su quali sono i metodi di prigionia migliori per i terroristi detenuti nelle carceri. Ma ai tempi non c'erano così tanti terroristi in Olanda. È stato a partire dal 2013 che abbiamo avuto un aumento dei foreign fighters. All'inizio tutti erano preoccupati soprattutto perché c'erano persone che partivano per la Siria. Ma quando nel 2013 queste hanno cominciato a tornare indietro, il problema dei foreign fighters è entrato urgentemente in agenda. Ci si chiedeva: cosa facciamo quando ritornano? Li mettiamo in prigione? Se li mettiamo in carcere, cosa facciamo con loro? E come saranno quando usciranno dalla prigione? Era già un problema prima, ma quando i foreign fighters hanno cominciato a tornare indietro dalla Siria, è diventata una questione ancora più urgente. Quella che avete sentito era la voce di Lisbeth van der Heide. Adesso le informazioni sul traffico e poi l'ultima pagina in Nessun Luogo Lontano con un nuovo ospite. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano. In quest'ultima pagina ci stiamo occupando dei processi di radicalizzazione, ma anche dei processi di riabilitazione. che sono due processi appunto estremamente importanti. Do il mio buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano alla professoressa Isabella Merzagora, professore di criminologia presso l'Università degli Studi di Milano, presidente, fra le altre cose, della Società Italiana di Criminologia. Professora Merzagora, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, io fra le altre cose sono solo quello però. Allora mi fermo, ho letto il curriculum, ha fatto mille cose, ma va bene, allora mi fermo. Al momento ricopre questi due ruoli. Professoressa, fra le mille cose che fa e che ha fatto però c'è un progetto estremamente interessante che provo a sintetizzare in maniera un po' prosaica, lei mi bacchetti pure. Lei si occupa dei cosiddetti bad or mad, cioè cattivi o pazzi, reclutamento di persone fragili, quelle che la cronaca, ahimè, ci ha consegnato recentemente. Ci spieghi meglio il suo progetto? Dunque, il progetto è quello di studiare le caratteristiche che possono appunto fare il radicalizzato, cioè qual è il processo di radicalizzazione e quali sono le caratteristiche, io non direi psicologiche, però proprio di identità, quindi qualche cosa che va anche al di fuori della psiche, quali sono state la tua storia, le tue esperienze. Diciamoci anche che alcune di queste persone, soprattutto quelle che vengono dai paesi in guerra, hanno anche subito atrocità, ingiustizie, eccetera. Quindi diciamo non solo una questione psicologica e tantomeno una questione psicopatologica. Noi siamo un po' abituati a pensare che le cose atroci, le cose orrende, bisogna essere matti, bisogna essere folli per farle. Non è sempre così. In questo senso, mad or bad. È molto interessante perché insomma apre uno scenario che spesso i media, come dire, che tratteggiano le notizie un po' più con l'accetta non fanno. Voi fondamentalmente trovate un filo rosso tra gli individui, quelli che hanno a un certo punto tirato fuori un coltello, un macete, si sono messi a compiere questi atti, cercate di individuare caratteristiche comuni per poter poi capire chi sono questi individui e eventualmente prevenire, è corretto? Beh certo, identificare un po' prima che il processo di radicalizzazione si completi è evidentemente in chiave preventiva molto importante. Ecco, proprio anche riallacciandomi al discorso che facevamo prima, folli o non folli, naturalmente sì, è vero, ci sono caratteristiche magari che accomunano molti di questi soggetti, però non possiamo assolutamente, ecco, dobbiamo proprio partire dall'idea che non sono tutti uguali. Per esempio, una differenza evidentemente molto importante è tra coloro che vengono proprio da scenari di guerra, di atrocità, rispetto a coloro che vengono da paesi a forte impronta islamica ma non hanno avuto di queste esperienze, e diverso ancora evidentemente sono coloro che invece, diciamo così, si convertono e poi si radicalizzano. Sì. Professoressa Merzagora, questi ultimi forse c'è una quota di psicopatologia in più. Qual è il profilo più fragile per la sua esperienza? Cioè qual è la persona più a rischio? Guarda, le persone, le caratteristiche, ecco, diciamo più a rischio sono in generale un atteggiamento autoritario, radicale in senso lato, perché poi radicali voglio dire non sono solo islamici. Certo. Persone che dividono nettamente il bene e il male, persone molto che dividono noi e loro, in gruppo e out group. Quindi noi siamo buoni, puri, giusti, poi maltrattati, sottoposti a vessazione, che tra l'altro qualche volta è pure vero. Certo. E invece gli altri sono cattivi, perfidi, ingiusti. L'Occidente, per esempio, visto nelle sue caratteristiche peggiori di materialismo, non spiritualità, e sono quindi così meritevoli di qualsiasi castigo. Sì. A questo punto la disumanizzazione dell'altro è da lì, storia tra l'altro non nuovissima ahimè, perché poi voglio dire è la matrice di ogni razzismo questo. Certo, certo. E tanto è vero che i primi studi sono stati fatti poi da Adorno e collaboratori proprio sui nazisti. Sì. Quindi questo atteggiamento autoritario e di netta cesura fra noi e loro è purtroppo una storia antica. Grazie mille. Professoressa Isabella Merzagora, professore di criminologia all'Università Statale, all'Università degli Studi di Milano, presidente della Società Italiana di Criminologia, grazie, buona giornata e buon lavoro, professoressa. Anche a lei, grazie. E anche la criminologia ci insegna che noi e gli altri è benefico, che il bianco e il nero è benefico e che anche le divisioni manichee certamente non danno buoni frutti. Fatemi tornare però da Lisbeth van der Heide, che coordina questo centro di attività per la riabilitazione e il reintegro degli estremisti che hanno compiuto appunto atti di terrorismo. È un centro olandese. Quanti progetti sta seguendo al momento la dottoressa van der Heide? Lo sentite dalla sua viva voce. Ora mi sto occupando della formazione delle autorità carcerarie in diversi paesi, tra cui Olanda, Filippine, Mali e Nigeria. Ogni stato ha problemi diversi. In alcuni il tasso di ritorno dei foreign fighters è più alto, in altri più basso. Alcuni stati hanno sistemi di prigionia buoni, altri hanno problemi di sovraffollamento delle celle. E anche in paesi con un sistema carcerario che funziona, come l'Olanda, si hanno lo stesso delle difficoltà a capire come comportarsi nei confronti dei terroristi che ritornano. Ci sono due cose che si possono fare. Una è la strategia del concentramento, che prevede di isolare terroristi separandoli da tutti gli altri prigionieri. È questo il metodo adottato in Olanda. Qui esistono solo due carceri dotate di una speciale ala per i terroristi. Quindi chiunque venga condannato per terrorismo viene mandato in quelle due strutture. Anche altri paesi vogliono adottare questa modalità, come la Gran Bretagna, che l'ha annunciato ieri. L'altra opzione è di incarcerare terroristi insieme agli altri prigionieri, distribuendoli su tutto il sistema carcerario. Questa è chiamata strategia dispersiva. Possiamo però aggiungere che entrambe le strategie hanno pregi e difetti. Messi insieme ad altri prigionieri, magari un ex combattente potrebbe tentare a sua volta di addestrare o radicalizzare gli altri detenuti. Sentite dalla viva voce di Lisbeth van der Heide pregi e difetti delle due strategie. Questo è esattamente il problema. Il motivo per cui molti paesi non vogliono mettere nella stessa cella terroristi e normali criminali è perché temono che i primi possano radicalizzare gli altri prigionieri, creando nuovi terroristi. È per questo che la maggior parte degli stati adotta la strategia basata sulla concentrazione. La grande domanda rimane: ma se si chiudono in una stessa cella solo i terroristi, quante possibilità ci saranno che questi si de-radicalizzino? Comunque hai ragione, il rischio di radicalizzazione è più alto se si imprigionano i terroristi insieme agli altri criminali, rispetto a quando li si lascia tutti insieme a parlare e a rafforzare la propria ideologia. Nei processi di riabilitazione degli ex foreign fighters c'è una parola chiave, e questa parola chiave è tempo. Penso che la prima cosa di cui si debba tener conto è che la riabilitazione ha bisogno di molto tempo per essere efficace. Per tornare alla tua domanda, ci si chiede perché si rinchiudono i terroristi in prigione. La risposta è sì, per punirli, ma anche per sperare che cambino. E non è una cosa che può succedere in poco tempo. Non si cambia ideologia né in una notte né in una o due settimane. Per questo serve tempo, cosa molto difficile. Questo perché il problema è spesso che non ci sono abbastanza prove e quindi non si possono tenere i terroristi in prigione a lungo. E se non li tieni in prigione, cosa farai? Li reinserisci nella società e li monitori con i servizi di intelligence? Penso che la prima cosa che serva sia il tempo, e la seconda sia coinvolgere in modo attivo i terroristi. I foreign fighters che ritornano dalla Siria e dall'Iraq possono farlo in modi molto diversi. Possono essersi radicalizzati, ma ci sono anche persone che tornano indietro perché sono rimaste deluse o scioccate da quello che succedeva in quei luoghi. Bisogna capire il motivo per cui sono tornati e non limitarsi a giudicarli. Bisogna cercare di creare con loro un'apertura per il cambiamento. Ci vuole tempo, è un processo diverso per ogni individuo e non sempre accade in prigione. I processi di riabilitazione, ci ha spiegato la studiosa olandese, cambiano di stato in stato. In molti paesi viene organizzata una riabilitazione anche religiosa, nelle Filippine, ad esempio, nelle carceri entrano degli imam che spiegano al prigioniero che ha creduto in un'interpretazione errata dell'Islam. In Europa, col processo di secolarizzazione che abbiamo avuto, non viene usato questo metodo, anche perché non si vuole che lo Stato venga coinvolto nell'interpretazione dell'Islam. C'è stato un caso di successo su tutti, ce lo racconta la stessa Van der Heide. In Olanda c'è stato un caso di successo, quello del gruppo Hofstad. Hofstad era il primo gruppo jihadista olandese, nato nel 2001. Uno dei suoi componenti ha ucciso il regista Theo van Gogh. Due membri vennero messi in prigione. Uno, un certo Jason, è uscito dalla prigione deradicalizzato. Si è anche scusato pubblicamente e ha dichiarato alla stampa che è contrario alla sua precedente interpretazione dell'Islam. Durante il primo anno di prigionia era frustrato e arrabbiato con tutti. Il secondo anno era concentrato solo sul suo processo. È solo al terzo anno di carcere che ha iniziato per la prima volta a riflettere seriamente su quello che aveva fatto. Quindi ci è voluto un po' di tempo prima che sviluppasse questo tipo di riflessione. And what he thought of it. So it took him quite some time to come to that point of reflecting. È tutto per oggi, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. L'appuntamento è questa sera ore 21 per la replica. Domani, se volete, alle ore 16, Nessun Luogo Sarà Nuovamente Lontano, con me, con Antonio Talia, Eleonora Argona, Silvia Malnati, Gianmarco Ferronato, che darà ancora musica e ritmo alla puntata. A domani. We'll be right back.